andando su, e lo scrivi, come due minuti ti avviso io. Sì, la balotte non va? Allora lo facciamo dopo in due, dai, se non ce la faccio. Adesso mi porta il silicone qua, chiudo la cassetta e me ne scendo. Ok, metto il gai. Ok, mi scendo. Chi è? Chi è? Ma non è molto, altri canali a rompere le scatole, eh? Ma l'hai finito di rompere le palle, eh? Con questo cazzo di portatile? Molto ne hai, aiuto! Ma molto ne hai, cazzo, è uscito pure dalle palle con questo cazzo di portatile, eh? Molto ne hai, aiuto! Cerca di cambiare canale, per favore, Luca, ci sei? Squalo, ci sei? Torre? C'è nessuno? Luca? Torre? Gianni Maria? Chi è? Non stai uscendo, chi è? Chi è che c'è il dito? A me mi sembra che tu ti stai sognando per oggi. Cercherò di farti bere, rinfrescarti la faccia bene. Tu ti farai da Santo Mauro, Sinizzo, boh, hanno a sé un cane. Ma dov'è che ti sei alzato male oggi? Ma il caffè preso ce l'hai? Preso, al naturale, fatto di casa e fatto in macchinetta, preso. Ma si vede già, già si vede, per carità. Tutti morti sono. C'è amico sta a fare la fiore al caposanto, crisantemi. Luca non si è sentito, morto anche quello. Buh, chi dà su flippero e sarà cubichenni. Graziano, attenzione Bacchisio. C'è una disci separato. Attenzione Gian Maria. Oh, il Purubici è andato. Cos'è Grazia? Chi si sono tra i feriti, tutti i canti a Giosso. A Giosso, Indi? A Santo Mauro. Santo Simaro. Non ve ne è uno che ponza. Per carità. Non lo so, Guio. Beh, grefa di cadaveri. Uno lo tira da sulla mulla, Tore. E saranno tutti impegnati. Beh. Già lo so che si sono preparando l'orticello. Saranno preparando la galvaccata. E allora? Se lo faccio asso in capo che la cavaccata, sarà già 40 anni che non vado. Sempre fatta si brutto. Ah ci sei, ho caduto. Dove? Sì, giù. No, ha già detto si vede ancora. So che no, che se ti gioco fa vedere, vuol dire che vi gioco. Ha già detto saranno buoni buoni 30 anni, da minimo che non ci vada la cavalcata. Sì, io ero... Che la pazzia mi mancherà giù un 5-6 anni. No, io sono belli anni. Sì, sono andato, boh, sarà una decina d'anni così, passando così la sera a Santa Maria. Sono rimasto una mezz'oretta e me ne sono andato. È sempre la stessa cosa, cosa, bah. Sì, non è sempre la stessa cosa, che chissà non è una cosa diversa. Anzi, altri gruppi diversi che arrivano da fuori. No, se volte accendo la TV e me la guarda la TV, qualche spessone me lo guardo, al televisore. Vedo, tranquillo, busato, senza gatti di sciugli e senza mantenere un porta a fuglio. Sì, ma se tutti abbassano come te rimane tutti sgarrati. Di questa e tocca apri il portafoglio sole tu cicco guarda trasciura era in occhi no era in occhi che Marina a benedizio ce ne è andato e lui Cicco esce allora dei pipistrelli Illu. Ebbè, Illu! Illu Dandu! Ti è arrivata quella donna grassa che ti ho mandato? A me? No. Eppure te l'ho mandata, sciabili. Ti ha già mandato su Messenger. Vediamo se c'è. Beh, allora. A chi tu l'hai arrivata? Sciabili. Gianluca Mariani, sì che te l'ho mandata, lui, parato Gesù, abbata che te è grassa, si vede un figato, un cuore di polmoni, Tore, la grazia, l'hai mandata a Luca, in sabicina si vede un cuore, i polmoni, i minucci, un figato, la milza di carta e grassa. Mi hai domandato, che è stata per da cosa? A riposo da? E anoressica, cazzo uno scheletro, che coraggio. Presente ce l'ha uno scheletro, così è ghiccia. Così è, andiamo via, andiamo. Ehi, il costumino, va la pittorra da pazza, vabbè nonna, si vede tutta la casa toracica lo scheletro, lo bacino, l'osso di là, uno scheletro. No, ma lo scheletro è buo. Ehi, lo scheletro, pelle e ossa, che schifo, che c'è anoressica. Donne, amante, quando mai non si intende male quando una e che secondi giorni, mi pare strano. Luca! Tiziana, non è tesoro nessuno. No, sono tutti morti, te l'ho detto. Ma con cani, nessuno che nessuno. Né Baccigio, né Marino, né Manicomio. Ah va, è uscito Gian Maria, ha fatto la messa, ha cucito, lo usate dei parito. È uscito io e si è parato direttamente a Rubra Genere. Sarà genere le aliette di pollo o le coccette. Beh, nessuno, tutti scesi lì a riloccuri nubi. Andiamo, andiamo, bubù. Dai, dai, dai, che ci abbiamo a vedere per Bacchisio. Attenzione, signor Bacchisio. Ecco, sai chi c'è a prendere i crisantemi, baffaralli? Ma vai a prendere i crisantemi, catta che l'hai tu pure con i crisantemi. Marino! Cosa che chi si sa per la mangiata una batita di minestra e fagiolo e patato? Sarà su ragazzo e buffena, passeraccio. Sì, bubù. Andiamo dove andiamo? Non lo fai un investimento in baracchino, no? Ti già lo fai l'affare. Perché ha già fatto bene a pigiarne tutto. Ma solo tu lo puoi fare, su è. E pure tu l'hai fatto, allora c'è va un ragazzo, ha detto che ti l'hai tutta rimuliti. Io so che tu sarai di fare te, ma c'è all'altra, no? Perché te... Cazzo, sei picciolato, è dell'orto botanico. Anche io travaglio, confronto a te, io ancora travaglio. Tu te lo puoi permettere, ti la mi dà tre, sei a sinistra, che virai in un tempo. E io sono impegnato, e travaglio. Conosci tu, conosci travagli tu. È una ringa, e basta, ma puoi farlo, Aspetta che il capo squadra, so pagati e me puro, pata ordini, ed è sempre un travaglio, domanda a Tore, Tore è vero Sicuro, sicuro. Visto l'hai che ha risposto l'anima di Bacchisio, dall'aldilà, e ti ha detto sicuro, sicuro. Buonasera signor Graziano, buonasera signor Figaro e signor Tore, buonasera. Vieni scucciati tutti e tre, avanti ancora per la QSO. Ciao, io ho ben sentito, mia paravata avremmo fortunato con Tore. Riprendi tu. Buonasera signor Bacchi, e allora, tutto bene, sì? Ma in fondo a chi si abbassi? Tutto bene Tore, acqua, acqua. Lascia fare, miglioremo che lo vento. Oh, Gio Mari! Già lo sai cosa ti ho detto? Non me ne metto più. Adesso ti affeggo subito che sta terminando. Vedete che è entrato Bacchisio. Lo stavo passando. Adesso Bacchisio non risponde, dice deve essere in mezzo ai cavoli. E adesso ha risposto, così è? Sì, è entrato adesso, è entrato. Capo di nuovo, grazie. Città, chi se gli arrendi? Vediamo se ha fatto, Bacchisio. Senti, sera, cosa hai detto, grazie? Ehi, così ha giudito. Fatto una crisantemi oggi, Bacchi. Sei uscito con la tromba! Perché volevo trombarmi a Tore? Capito, grazia? Eia, Tore, capito hai a Bacchisio? Una tromba, no? Allora, graziano, stasera fa vedere i curimusi. Per forza! Non lo fai l'affare, no, Bacchi? A investire i soldi in baracchini! Chi già li fa vedi, tutti farati se ci sono. Ma farati allo fumo però. No, dalla parte di osso. A Caramascio? E allora, poi il mio crisantemi in campagna, mi fa novembre. Ehi, le pianta vale i crisantemi. E allora bisogna piantarli in mese d'orto. Mi si è piantato in agosto, poi nasce a settembre, se no non viene ad avanti. O viene tardi o viene prima di, e fermo così, piantiamo le santemi. Per i cibi del coso, della 27. Ma poi di più mi aveva aumentato l'uroco. Ma si è allagato, come entra la mancia dell'uso allora? E allora, ogni due viene a fare un supermercato e chi va a è tutto loco lì. Mi sono pure i garacci. Bello, eh. E io mi sono il mio compagno, c'è l'appartamento allora. E chi mi si sa di me? A che oggi vai? E la tipografia di Monti? No, oh, vai, no, neanche, c'è cioè la piazzetta. Sì, c'è anche la tipografia di Punti, hai detto bene. E in più la cosa, l'albergo dove fanno le signorine. E allora, è proprio indovinato i chibi, eh? Proprio giusto vieni, vero dottore? No, non me la... Mi dico a me, non me ne intendo io di questi cosi. Ah, non sei aggiornato, ma chi dottore non è aggiornato? Bisogna portare la calamascio, grazie, fammelo vedere. Bisogna portare la calamascio, ma non siamo anche in dia calamascio dove però. No, me ne intendo io, no. Non so come te graziano. Divino, grazie, bisogna essere esperti in ogni materia. E allora, deve essere proprio esperto. E Marino, si è inteso, grazie, no, nulla. Sciopero fatto il subizzino. Oh, ci ha mangiato una paletta di 1.300 fagioli e patato e fino a 100 di campagna. Ci ha mangiato una paletta di appazzanato e su ragheni buffetti e trudienti. Ma non c'era pure la scorrenza con tosse, no? La moglie l'ha posto chi vi vola, un ripeto, chi... a chi sta casetta dei ferri? C'è la piazza Giulietta a Castello e c'è la porti i ghibi, in asso. Questa specie di barracca, là, i ghibi si sono attaccato. Ehi, papà, è vapora la porti in asso. Così è vapore già prima, che bella canna fumare ai ghibi. Sì, ma va pure la radio, l'antenna si è piazzato i ghibi. Ehi, è in direzione dell'antenna, batterà le onde magnetiche scorreggiate. No, tu l'hai sentito le onde magnetiche scorreggiate? Ah, boh. Soldo ciò che è diventato. Ma cosa ne abbiamo fatto, graziate, il dottore? Non fa vita, non risponde. A me mi pare che tu vieni a portarti la calamascia e poi si lo prendo. Ah, lo sai cosa mi ha detto? Chiedo il barone, si fricca, li vuoi pagati. 5 centesimi a parola. Capito, ecco per cosa spendi lo salvadanaio, per rimunire i minuti. Allora, Marco Gullamo ancora venire al traccio una balaura. Laura. Ehi, dai, Tom. Di la tua. Non ti rispondi, se non bolli prima, non rispondi, no. C'è poi una casa magnetica, se no lo favetano. E allora già stata io sono nella casa magnetica, dopo mi ha menirato, grazie, e chissà che fa media. Ehi, quando fa media, la paratina che non butto io, a chi pongo vicino un altro, mi adesivo, non posso attaccare i libri. No, io ci capite la televisione, non interessa fa vita. No, le manca giù, sì. No, sono Gaggiuddu. Cata, che non posso far nulla. Un attimino, già rientro subito. Va bene, inteso è Bacchi. Sì, mi pare che se prendi qualche cosa, dopo... Tore, non fare le cose, il forcaccione, io fa vita. Ma lei che fa sta comprando questa bambola gonfiabile, no? Chi se deve comprare da due? Le furgine su internet, se aveva comprata. Invece della bambola non sarà un bambolo, no? Niente di strano, probabile. Però vi siete scazzicati poco fa, Tu e Tore, però tu l'hai passato. Strano, Tore, ti ha passato Marchisio, Ma che ha già serrato subito io, non so come te che vi so come mezz'ora fa vedere. Catta! Io do il passaggio agli più anziani di me. Inteso è Bacchi, ti dà che non lascia passare, prima bassi giù. È chiaro, io devo passare io. Sempre i giganti prima, i nani dopo. Eia, vengo bauti, ma come siete andati a voi? Mi pare che arrivi prima a tutti noi. così da me mi dici come ti si stazzi. Signor Bacchi, pensavo che arrivi prima Edo di noi. Ma bisogna vedere che la si ha, se l'antenna ricevi che vi sotto, Se ricevi una direttiva bisogna punire. Da buon pugno si è avvenuta, mi pare poi successo quello della Beatrice, ma direttiva, Antonello. Ma no, il gestello, sai poco sarà posto? La punisci da Negra Trento. Dice che con la centrifuga funziona di più. Ma sarà contento Antonello però, Sarà contento, Antonello, stai ascoltando? Cosa? Da quando l'hanno dato in sta carta? Dili di no, come ci si chiama? La carta del reddito del cittadino. E di scendi pure di capo. Sì, è contento di milioni, Boh, adesso ci spiego io qua. Già mangiate se l'hanno di là. Ma sì, che io vai già, sono 26, mi pare che, o 25, non mi metto con una dita, sono 25 o 26, ma... Alla caghetta, là. È impossibile, se sono girato l'altro baracchino con chi ci di là. Se sei le cose batte, ma non le puoi prendere così. Se compri roba da mangiare, ho pagato una bolletta. O che sai che d'altro funziona la carta, se paghi se cose non funziona. Non è vero, chi te l'ha detto? Se mi l'ha detto lui, a me mi ha detto se ha comprato anche il microfono, l'MB più 4, in via 4 novembre, l'ha coso. E l'ha pagato con la carta e ci ha ordinato anche una radio che arriva il prossimo mese. Gliel'ha chiesto e l'ha passata la carta e l'ha pagato. E gliel'ha venduto anche scontato 35 euro, l'MB più 4. Sì, al prossimo mese allora vuol dire che loro c'hanno... Dico, al prossimo mese vedrai che non ne ridate ne più. Ah va, dalla sua mese andrà a ritira l'ubaracchino a chi l'ha già pagato. Così ha detto è del radio mi. E poi ci ha preso altre cose che adesso non mi ricordo. Ma non può essere, grazie a Catta, che l'ha fatta altra gente. Era da pagare, no? E non avrà fatto pagare. Non vi credo di chissà cosa. Vuol dire che va via la sedina a passi. Guarda che l'ha detto lui l'altro giorno, mi, qua è radio, adesso non mi ricordo chi è Marino, stava dicendo. Magari chi su, Antonello. Antonello. Ma fini minira, che lui ha usato la carta delle cose, del banco ma t'ha usato, no chi si aggatta. No, chi si aggatta, mi l'ha data a provarci, pazia, ed è passata, e ha pagato con chissà. Ehi, ma siccome ti sono controllati che si gassi, al prossimo mese non è ritira che vi la bloccani. E perlomeno anche io sapevo che era una cosa così. Anche un'altra al capo stava dicendo questa signora che tu chissù, e adesso si ha pigliato, non so cosa si ha pigliato, birra, vino, liquori, con quella carta, invece pigliasse Romagna. Quella carta è fatta per pagare le bollette e altra roba è per prendere del mangiare, non per fare altri goci, andare a giugare, fare chi da. No, allora, la prima, nel primo mese poi va, al secondo mese non va che te la bloccano. Anche io sapevo che era così, che serviva per pagare le bollette, luce, acqua, affitto. E a comprarti mangiare, io avevo sentito così. E invece un biglietto va approvato. E un biglietto ha pagato con chissà. Sì, no, che no. E chi si corrisponde all'ufficio entrate, mi? Cosa ti gridi? Quella corrisponde all'ufficio entrate, quando l'ufficio entrate, guarda, quella cosa lì vi la bloccano e non è tratta più, Edo. Hai compreso? Mi prenda signor Bacchi. Bacchi, io. Ehi, grazie. Stiamo dicendo, ogni mese gliela caricano. Ogni mese gliela caricano di quel posto che gli è stato assegnato. Però io sapevo che lo puoi adoperare solamente a pagare bulletti e a pigliarti la roba di magna. La bombola del gas la puoi prendere perché serve per la cucina. Non lo so come funziona quella roba lì. L'ho sentito in televisione, però non mi sono approfondito a chiarire le cose. Ma da bene vera, allora, perché se così ogni mese le accaricano ed è fortunato. Bisogna vedere anche la cifra che gli hanno dato, sarà una cifra irrisoria. No, le cifre sono differenti. A Gittesu esce di Buratrice la notizia, due ragazzi che hanno intervistato, che sono andati a fargli casino là, perché gli hanno assegnato 40 euro. E cosa mi fai con 40 euro? E infatti le hanno rifiutata quei due lì. E cosa ci fai con 40 euro? Ah! Compri il pane un paio di giorni, poi non fai più nulla. No, 40 euro è proprio... miserabile con lì. 40 euro! Ti rimani 5 minuti dentro un negozio, prendi le cose e ti esce, ne hai preso 50, pure 40. A 40 euro cosa abbi? Nulla abbi. Ma io me ne avevo fatto la vagogna, ma come fai a dare i 40 euro? Uno fa di là, tu manda l'elemosina se fa di più di 40 euro a radio. L'elemosina proprio, più poco dell'elemosina. E così è, avanti si otto. Io so, ma chi è? Il minimo che è 780 euro. Il minimo, non 40 euro, non te le danno. Il minimo è 780 euro che devono dare. Per darti 40 euro neanche la carta ti danno. Guarda che l'ho visto a Striscia la Notizia, me li ha intervistati a Striscia la Notizia, a quei due ragazzi che gli hanno prescritto la carta, sono andati a Videga, tu l'hanno prescritto e va via, 40 euro uno e 40 euro l'altro. Infatti non hanno voluto, vi la turrata, e ma con l'elemosina, ma ve la vai. Così non è, non lo so. Non usaggio allora, ne riprenda signor Bacchi. E vabbè, sarà una cifra simbolica. L'avranno assegnato 700 euro al mese, e lui si deve giostrare in tutto il mese quei soldi. Quando dai una cifra del genere, andare, da, per uno che non c'ha niente, al limite si paga l'affitto, la luce, e chi su che gli rimane, leva, e chi su che gli rimane si fa di tutto in spesa di magna, e cosa devi fare? Posso andare a risparmio, ma una parabassata sola, 700 euro sono pochi burro, ma che secondo non tu paga l'affitto non le faccia manca l'affitto, le lasciano la luce, leva e a magna aria. Quello sì, e secondo me la ragazza che è così, chi se lo paga nulla anda e si fa di tutto in pesa di magna e non paga i bulletti. Tranquillo che fa di così, che dici? Ma io mi muri di fame per pagarmi la fitta, io vado a mangiare da voi. Ma mi pensano un papà da voi a pagare. E allora, come stai che su Cardinale, adesso non mi ricordo che città era, ti ha pagato 300.000 euro, di più 300.000 euro, di tutta quella gente che abitava in quel condominio, ha pagato bulletti di luce e bulletti di Eva. L'ha pagata a tutti i canti, il suo cardinale. A Roma era quello, grazie, a Roma era, che ha pagato la bolletta da 300 euro di euro. Ai figli, il denaro del Vaticano, ha fatto un'opera di bene. Vabbè, lui sì, ma rubava, sarà niente. Intanto è bianco, è sempre in bianco, se diventa niente non è quasi nulla. C'ha di recuperarsi dalle elemosine. Anche il babà dice, aggiudà, lì di là del Vaticano non si toccano in mano. pure circolare in Italia, se di no, e lo papà non le fa decine. E te ne sei presente al Vaticano, rimusi. Tutti i papà che fanno i dinari, in butti in 30 al Vaticano. E chi vedrete per una miniera, vero dottore? Sì, bisogna avere calugue. Dentro la città del Vaticano. C'è una città all'interno del Vaticano. Grazie, a Trento non vedo che entrato, quindi non lo so. Non so nulla cosa c'è e cosa non c'è. Te lo sto dicendo io che c'è la città lì al Vaticano. Mi bacchigio, tu non l'hai mai inteso. Sì, grazie, c'è la città del Vaticano, all'interno del coso di San Pietro c'è un cancello grande e si entra lì, si entra. Infatti loro perché hanno fatto le monete del Vaticano, le usano dentro al Vaticano, anche fuori in Italia, diciamo così, fuori del Vaticano, a Roma le trovi le monete del Vaticano, te ne capitano sempre, quello del Papa, le vite che d'altro. Sono uguali alle nostre, solo hanno lo stemma del pontificato. Capito, Ettore? Il suo cardinale ha fatto bene, ha pagato tutto quanto, voi quando arrivi in torre di denaro gli avviso, non ti preoccupare. Chi si tratta di denaro non ne ha pagato, a chi pensi che tu ti avrai lasciata a fine mese, all'altro mese pagano, chi si non pagano non hanno denaro, non l'hai visto che condizioni erano, l'ha fatto vedere al televisore, non l'hai visto. L'ha già visto così. Pa un mese vi rani a la Russia, voi più adananzi, bisogna vedere. Allora vi la daga le bisica più di un mese, si basta che su periodo, vede ne chi non paga, ne chi si indibide già in torre, su chi sa ci prende di tronca nella Russia e leva. Capito? Allora, se un momento il lene... Non tenere la busta a casa la luce, te la diminuisce la luce per far funzionare un frigorifero e qualche lampadina. E la panoa, le cose dell'acqua non te la possono togliere, ma te la devono fare fine, fine, fine, per avere l'acqua lo stesso. Vabbè, lo so, che fanno così. E cosa fai quando tu andi a sentire la luce, vai in un frigorifero acceso e non funziona né una né l'altra, che è troppo debole la potenza, e cosa è in fresca? Nulla! Purtroppo l'Ene te la abbassa così, e così devi andare. Non solo, ti barra il frigorifero di chissà maniera. A chi si fa? Perché non c'è quella pressione che deve avere il motore del frigorifero. E ti si imballa un frigorifero, ed è come te che non hai. Guarda che la luce si può fare andare anche a 140, non solo 2 a 20, no. Anche a 140. E il coso, l'Ene te la abbassa, a 140 te la abbassa. Bisogna avere il frigorifero se ce la fa a resistere quella potenza così debole. Secondo me si imballa. No, chiami l'assistente e ti gira la manopolina, te la sotto, ti gira una piccola manopolina, te la gira, lo fa andare a 140. Sì, non hanno di nada di pagare la luce, c'è a mani un tecnico, ha fatto il suo lavaggio, un tecnico fuori di nada. Sono per un gallinari. Il portafoglio è chi vede oramai, aveva che ha fatto il suo operato bene, è diventato un cardinale. Vero, Bacchi? Bacchi! Non mi senti, grazie. Ti ho detto, il cardinale adesso ha le mani legate perché non ne tira più fuori i quattrini. A chi si tocca di denaro, babbo, non muore se treggia. Secondo me ne l'ha tagliato rimasto. Senza mangiare, grazie, grazie. Un paggio di ghetto senza mangiare, non lascia, va. A me mi pare di usare un paggio d'anni senza mangiare. Mi hai preso un paio di dinammi. Il paese sono fesserie, 300.000 euro, cosa mi sbagliano i paesi? Ma tu gli si vanno, viene la voglia di no. A ti piace, va, allora nella valenilaria, vai, ci drusori. Boh! E lo vento, se un vento non finisce più in anche sopra. No, il vento non lo vedo da qua, però c'è il sole. Tore, lo vedi il sole? Sì che lo vedo il sole, ma non abbaia assai mio, che se no ti inganna. Un sole lonfio, non è proprio di quelli potenti. Potente, impotente, sole lonfio. Il che non sono inganna Bizzini. E infatti così inganna Graziano, inganna. Grazie buono il piccinetto. Sono i piccetti simboli. A chi è stato? Io sono qui per di lago. A me. Buonasera, Bacchi. Buonasera, Gianmarie, ben ascoltato. Avanti. Grazie, pazienti. Perché c'era Meduzio, grazie. Per carità, sì, è rotta, non la vedi più, saluti, Sì, saluti, che fa fase scintille, Graziano. E poi a corrente di tutto, ed è aggiornato, Lui è aggiornato in tutto, per tutto. Diglielo bello bene. E allora, chi sa oggi mi ha fatto andare un gaffo, fa ritirarmi il voglio dice, e mi ha detto, mi devi portare gli estratti conto delle poste, se no non te lo posso fare. A ti piazzi. E infatti capita tanto che si così. Ehi, la vaga d'altro so con l'indirizzo d'olio. E la madre da te. La dice, va bene, domani vado, lo faccio e lunedì glielo porto. Ma non lo dica a nessuno però, Che reso conto deve fare alle poste? Beh, devi dire che vai. E allora, non può finire l'agenzia delle entrate, sennò non mi dà il voglio in sé. Allora, fa poi di impegni, vedrai che non ti tocca le più. Già posto, l'uni mi dico, stai il foglio, avanza. Stai, grazie. Attenzione, tutto a Graziano, Battini, su queste cose. Graziano è Monica Monica sempre, e si cagge sempre con il mio biuto. Ore! Ehi, a Gianmarie, Graziano domani deve fare un'operazione. E allora già fatta l'operazione. E oggi la fa, oggi la fa l'operazione. Fatta, fatta, l'uni la reggo un voglio. Ma abbiamo una firma, era un bimbo, un burzi, non ti pari, Tutto fatto, da un consulente privato che faccio io. Il biglietto può andare a Caramascio. Qui ce l'hai privato, noi ce l'abbiamo a parte fuori. Beh, ma chi? No, Graziano sta facendo i documenti per coso? Per Caramascio. E se c'è? Ehi, Gianmarie, purtroppo Graziano è ricco, Orecchie, benestante, lui è benestante. Si vede, arrivato a ritirarsi, fa su giro. Dici, non può camminare, però fa da ritirare, là già sta, già può camminare, capito? A me che si è pagato di brutto, a me mi la regali fino a casa. Davvero? A me mi ha detto che ti fai venire tu invece. Da voi gli veni, guarda che sono pulitini, a sparare. Bravo Luca, ma ricordo che non sei sentito. Chissà cosa fai Luca, va. E oggi è venna, già la ruggirco, vuol dire la rossita. Sta a ruggire il pollo come se ha un altro. E sanzione. No, chi sanzione sta con un sicchirro. Ed è sparito. Se non lo fuoco ancora, capito? E allora? Ma sicuri siamo che sono ali di bollo, a chi non che vede un bacicurraccio e sono gli ali diminuenti. Se ne può fare più calcio nell'anno, no, con il Sebastiano. Oh. Ehi, tu hai sempre in che mangia. Sei nella bufera. Oh, yeah. Avanti, grazie. E allora, oggi mi ha fatto un risotto al tartufo. Buona reggio era, Tore. Sì. A me non piace, a me piace un risotto, giuro. Non lo di, al tartufo, diglielo tu, Bacchi. Non è un intenditore. Bacchizio. Ehi, ti ho detto, grazie, che ci vuole, anche il zafferano. C'è un buono risotto. C'è anche il zafferano, a voglia. Capita, gli accorta poco, barini, le bustine di berle, barini, fini, fini. Se ti vedi trenti sono mezzo viuti. Allora, pieni di voi, a mezzo viuti per comprare un'altra. No, le compro sempre in confezione da 8 bustine solo. Una attaccata all'altra. Barini viuti. Zafferano. Zafferano, costa pure. Se non fate ne baga. E anche il tartufo no. E anche il tartufo. Poi vado pure chissà su cose, ma non che se non mi piace. E si grattugia quello sulla pasta. È un coso di pesce, ma non mi piace questo. Non mi metto mentre si chiama. Storione, sarà così. La bottarga, che è te storione, la bottarga è. Ma non mi piace, no, pucci, no. E invece chi sei buona, vedi, chi sei buona, non piace a te, chissà. Vediamo se ne, Gian Maria se ne intende, Gian Maria, tu la mangi quella. Io non lo so nemmeno cosa è questa cosa, non ho mai mangiato di questa cosa io. Ora spiegagliela tu cosa è. La bottarga, Gian Maria, la bottarga, che sarebbero le cose del mugine, e come ti si chiamano, no, va. Vabbè, le cose del mugine. Se non la reggo non mi ricordo. Grazie a tu, io le sai queste cose. Certo, come si spiegatelo, come si usa, quanto costa, quanto lo si mette, illuminaci. Sono le uova del mugine. Aspetta, ma chi grazie a lo sa. Sono le uova del mugine, te l'ha detto anche Bacchigio. Però a me non mi piace, te lo puoi mettere nella pasta asciutta, la grattugi sopra e ti racconti con ghiaccio. Ma a me non mi piace, l'usori non mi piace. Pucci, sembra pesce. Oh, sembra pesce. Ho capito qual è, ho capito. Vabbè, a chi piace, a chi no. Non tutte le cose piacciono alla persona umana. C'è le cose che piacciono e le cose che non piacciono. Tu ya mangi tutto. No, quello io l'ho assaggiato e non mi piace. No, non mi piace proprio il sapore. No, pucci. E per migliore già si rumagna. Paoletta si rumagna la mate, sì o no? Non mi piace. Non è a tutti che piace. Oh, già c'è, ma la maggior parte della gente ho visto che lo comprano. Vuol dire piace, ma non tutti, Cazzo, la cosa piace, è chiaro che lo comprare. Non penso che compri una cosa piacciano, assolutamente. Ma che so, non mi ricordo com'è che sta facciamo, non mi ricordo, forse da parecchio che non ne mangio di quella roba. In genere la trovi vicino alla casa, anche all'Eurospin. Sono in bustine, farini. Sono bustine, sono un 10 cm, forse qualche cosa di più. E vi sono due cose lunghe 30. cioè due cose no, che hai un pezzo di rubescio e siccato, poi non so come trovarsi. Sono le uova del mugine quelli, però non lo so come lo fanno, è una roba secca, mi capito, color caramello, sul marroncino lucido. Quello lo prendi, ti fai gli spaghetti, lo prendi e te lo grattugi sopra. Capito? Grazie, ti dico io come lo fanno, perché io quando stavo lavorando a capra se lo vedevo nella peschiera. Lì il mucine tolgono le uova, poi c'è queste cannetti, cose fatte di canna. Le appendono dentro questa casa e ci fanno il fuoco per affumicarle, per asciugare, capito? Adesso la fumichetta le cadro di fase. Io ci ho fatto tutti i pavimenti della peschiera, cavolo, sa, e mi sono cacciato 2 mesi. E quando pigliavano i mugini, ne cavavano l'uvi, li pulivano su cannizzo, durante i casetti virani, fatti di rosso. E mi facevano un fungo per affumicarli. Ho capito. Adesso so quale errore, sì. Beh, qualche volta l'avrò mangiato, ma io non ne ho messo mai. Forse se l'avrà messo la signora qua, beh. Io non l'ho mai messo, non ho mai comprato quella roba io. Prova a comprarlo e te lo grattugi, non fai la pasta e te lo grattugi sopra. E vedi se ti piace, anche se ti piace, io un bacio, penso che ti piaccia. Un bacio mi piace sempre piaciuto a me, e ti allungrivia. E argomenti. Mi pure oggi la giubilavo parecchio, niente, pesce. Niente, boh. E allora che ci sei tu rubili? Ti piace, vedrai che ti recupereggi più spesso tu. A chi invece fatti, non so, una pasta al burro. Ti fai la pasta, pigli chi c'è per un grattugi, ti tagli di me, compreso. E c'è il sapore del pesce, a me non mi piace. Eia. Avanti tu, a te ti piace, sì? A che volta oggi? Oggi mangiato il ristorante, l'ho mangiato. Deve essere buono, mi ricordo io, boh. L'avrò mangiato nel salto, però non mi ricordo com'è, che sapore ha, che sapore lo ha, boh. E vuol dire che qualche volta lo prendiamo e proviamo a vedere un po' se piace. Così è bacchino. Ma io ti dico, non mi piace neanche a vederla. A chi che se la vede vendi non li mangi bannuta. A chi fa schifo mentre fasini. Se le vedi, le tirano fuori le uova, poi le buone il cavaccinello, le tre fucine, le buone il cioccannizzo. Gli assani io faccio stato, poi vado in un fuoco a fumicarli. Ah vai. E costa un osso di vino. Costa parecchio, costa, no? Già cosa, ma adesso non me lo ricordo quanto lo pago io quando lo prendo, anche un miliù impara la pesa, se lo cuore in mezzo la pesa, no, non mi ricordo quanto costa. E no, vedo che già si mangia e non qui, io non ne mangio. E allora Bacchi, se vedi quando prendono i tonni alla palmera, a Olbia, tutte le volte che andassi e mi andassi un buzziroso, non mangi più tonno in catola, se vedi come lavorano tutto il tonno, una buccaria, un fiaco di cadavere di pesce, mi diciano sempre i rossi, e mi andassi a buzziroso di pesce da lì. È un montinaggio, non è un coso, uno scatoleficio, un montinaggio, e buzziroso su pesce quando pone la catola. Guarda, io andavo alla palmera dentro a caricare e poi andavo e gli facevo le consegne con il rimorchio e facevo le consegne ai supermercati. Ma altrimenti mi ne andavo via da lì, puzzinosi, poi dovevi vedere dentro la fabbrica dove trattano il tonno e le scatoleggiano. Un fiago, ma fiago, Gesù Cristo mio, a morivo io. Oh ragazzi, a me mi sociamenti. Ci sentiamo domani se tutto andava, se non fa zeba. Andava. Ci sentiamo. Ciao Bacchisio, ciao Graziano, ciao Gio Maria. Ok, a domani. Ok, ciao Tore, e anche io adesso chiudo là. Ciao dottore, buon proseguimento. Ciao Gio Maria, chiuso. Ciao Bacchizio, chiuso. Ciao a chi è in ascolto. A domani, riprendi tra Gio Maria. Ok, ciao dottore, ci sentiamo. Buon proseguimento, saluto Riccardo. Ciao, grazie. È cambiato tutto, anche in casa, dai. Anch'io chiuso, dai. Buon proseguimento. Ciao Bacchi. Ci sentiamo, saluto in casa, a domani se coincide, riprendi e chiudo. Bacchi. Ciao Gio Maria, buona serata, ciao anche a Tore e a Graziano. Buon QRX, QRT per tutte e tre, Bacchisio vi saluto ancora e passo in QRT anche lui. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.